al di là della costiera, dopo così troppo tempo, nella terra dei limoni non ricordo cosa c'è, quel profumo degli agrumi che sentivo a casa mia, e ricordo degli amori sbocciati come i fiori che han vissuto lungo i fiumi. Restano solo proiezioni di un tempo cancellato, alla lava che pian piano ha portato via i colori per dipingerli in un quadro usando solo bianco e nero. Tra la sabbia un bambino che mi porta ad essere fiero rivedendomi al mattino. Quel che rimane adesso di questa mia terra lontana, solo granelli di sabbia abbracciati dal mare che non dimentico. Cerco, ricerco, non trovo lo stesso profumo di pesco che era su di te. Resta solo sabbia nera caduta sui vigneti, confusi tra i ricordi di persone che han vissuto con dei sogni troppo antichi, mattutini sopra i campi che ribaltano la terra che era come una miniera piena solo di momenti. Che rimane adesso di questa mia terra lontana, solo granelli di sabbia abbracciati dal mare che non dimentico. Cerco, ricerco, non trovo lo stesso profumo di pesco che era su di te.